Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Il tema di oggi, e ve lo abbiamo già anticipato ieri, chi è in difficoltà con il pagamento del mutuo può chiedere la sospensione delle rate. Questo lo sapete, questa è un'opportunità offerta dal piano famiglie siglato un anno fa tra ABI e Associazione dei Consumatori. Questo piano è stato prorogato e adesso chi è in difficoltà con il pagamento del mutuo può chiedere la sospensione delle rate fino al 31 luglio di quest'anno. Quindi c'è stata questa proroga di 6 mesi per la presentazione delle domande per la sospensione delle rate. Questo annuncio è stato dato ieri dalla presidente dell'Associazione Bancaria Italiana Giuseppe Mussari e dalle associazioni dei consumatori firmatarie dell'accordo. Le richieste per lo stop al pagamento delle rate, che ricordiamolo non comportano sconti da parte delle banche ma il differimento temporale dei pagamenti, quindi c'è un rinvio, possono essere effettuate in caso di eventi gravi come la perdita del posto di lavoro, la cassa integrazione, la morte o l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza di un componente del nucleo familiare. Gli eventi in base ai quali può essere chiesta la sospensione si devono essere verificati fra il 30 giugno e entro il 30 giugno del 2011 le domande possono essere presentate entro il 31 luglio. E allora questa è la proroga. Naturalmente le condizioni sono le medesime dell'accordo passato. C'è però anche un altro aspetto importante da segnalare, che praticamente le famiglie che si trovano in difficoltà sono quelle che hanno già usufruito della sospensione del mutuo, e quindi ci si chiede come faranno le persone che si sono già avvalse di questa opportunità a ritornare a pagare, appunto. E quindi in qualche maniera stamattina cercheremo anche di dare delle risposte a questi nuclei familiari. La proroga è comunque un fatto molto importante. Le associazioni dei consumatori premono già per iniziative che guardino anche oltre la scadenza del 31 luglio, e in qualche maniera si pensa, anche se ancora non è stato istituito un tavolo in cui si parli di questo, ha una sorta appunto di situazione strutturale, di aiuto costante alle famiglie. Di tutto questo stamattina parleremo intanto con il nostro Maximiliano Cellino, il Sole 24 Ore. Max, ciao, buona Buongiorno. Giornata, bentornato. Angelo Peppetti, ufficio crediti dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, e bentornato anche a lui. Dottor Peppetti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Alle 12.30 ci collegheremo con Fabio Picciolini, segretario nazionale della Diconsum, che è una appunto la più importante associazione dei consumatori italiana ed è tra le firmatarie appunto del protocollo d'intesa. 800 24 00 24 il numero verde per i vostri interventi, 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Se non volete inviarci un messaggio, avete bisogno di scriverci qualcosa di più articolato, potete utilizzare l'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Allora Maximilian, abbiamo la proroga, come abbiamo già detto, peraltro se ne parlava già da qualche tempo, anche il presidente dell'ABI aveva preannunciato che si sarebbe presumibilmente andati verso questa strada, perché le associazioni dei consumatori dicono la situazione di allarme, di preoccupazione fra le famiglie è tutt'altro che terminata. Vogliamo fare anche un punto, poi magari lo rifaremo anche con Peppetti con dati più precisi, su come è andato il piano famiglie, appunto, che ha ormai un anno di vita e questa prima tranche volge al termine, perché anche tu avevi anticipato qualche dato che poi è stato confermato ieri proprio dall'ABI nella conferenza stampa di presentazione della proroga. Sì, i dati sono fermi, diciamo, per i primi 10 mesi, dal 1 febbraio, per quanto riguarda il piano famiglie, cioè dal momento in cui è entrato in vigore il piano famiglie, fino alla fine di novembre, e sono poco più di 35.000 famiglie, 35.400 più o meno, 35.500 a fine febbraio, a fine novembre, che hanno usufruito del piano famiglie, quindi sono riuscite a sospendere la rata. È una cifra che ovviamente sarà cresciuta in questi ultimi mesi e che forse magari dopo ne possiamo discutere con Peppetti, sembra anche inferiore a quanto si paventava all'inizio, perché si erano fatte delle stime di oltre 100.000 famiglie potenzialmente interessate a una sospensione, mentre invece alcune associazioni dei consumatori che non avevano firmato l'accordo parlavano addirittura di 500.000 famiglie in difficoltà. Ora è molto difficile fare delle considerazioni a mio avviso su queste cifre, perché queste 35.000 famiglie, che non sono poche, non sono poche, vanno aggiunte tutte quelle famiglie che avevano sospeso prima con la propria banca la rata, con iniziative che le principali banche avevano già attuato. Questi sono sicuramente alcune decine di migliaia, sicuramente almeno 20.000. E poi bisogna fare anche altri tipi di considerazioni. Per quanto le banche si siano adoperate ad allargare le maglie del piano famiglie, in alcuni casi erano forse anche un po' strette. Ricordiamo i requisiti del reddito familiare, che sono del reddito del mutuatario, che sono non superiori a 40.000 euro, o del mutuo iniziale, almeno, che non doveva essere superiore a 150.000 euro. Poi molte banche hanno allargato questi requisiti, ma è chiaro che ci sono ancora delle famiglie che sono in difficoltà e che rimangono fuori da questa e anche dal Fondo di Solidarietà, esatto, di cui probabilmente parleremo, che è una misura più recente, parallela, esatto, insomma. È stata presa più di recente ed è praticamente un fondo gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia. Ha una dotazione che si sta peraltro esaurendo e qua c'è un'altra pressione delle associazioni dei consumatori affinché il Ministero dell'Economia appunto lo allarghi, perché appunto la dotazione è in via già è verso la fine. Tra l'altro volevo segnalare agli ascoltatori che proprio stamattina il Sole 24 Ore, sempre per firma di Maximiliano Cellino, firma il Vademecum per lo stop alla rata, e quindi magari trovate appunto tutti i punti fondamentali del protocollo tra ABI e Associazione dei Consumatori, qualora non abbiate capito i requisiti per poter fare richiesta alla vostra banca per chiedere appunto la sospensione del mutuo. Dottor Peppetti, allora abbiamo dato qualche cifra con Maximiliano Cellino. Le operazioni di sospensione chieste dalle famiglie hanno avuto anche un'identità, nel senso, quali sono state le cause prevalenti per cui appunto dalle famiglie è arrivata la richiesta nei confronti della banca di interrompere la restituzione del mutuo? Ma guardi, innanzitutto la causa prevalente è purtroppo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Dobbiamo dire che le posizioni potevano essere sia in bonus che con ritardo di pagamento, entrambi sono intorno al 50-50%, quindi hanno sospeso sia famiglie che già erano in difficoltà prima della sospensione e quelle che invece hanno preferito, anche se continuavano regolarmente a pagare, a sospendere le rate. Ma riprendendo un po' quello che diceva Max prima, 35 sono tanti o sono pochi, noi avremmo preferito non sospendere nulla, ovviamente. Purtroppo invece abbiamo sospeso 35.000 e oltre 472 contratti di mutuo. Questi sono i dati poi ultimi a disposizione a novembre del 2010. C'è stata una richiesta di proroga, a sottolineare che di fatti è una misura che comunque serve a sostenere le famiglie, ed è giusto ricordare che poi al termine del periodo di proroga è previsto comunque un nuovo incontro associazione dei consumatori per verificare se ci sono le possibilità per nuove iniziative di sostegno. Ecco, la prima cosa che va detta, dottor Peppetti, per chi ha già usufruito del primo piano, mi sembra che non potrà usufruire della proroga, non potrà. È corretto. Chi si tratta soltanto di una proroga del tempo per la presentazione delle domande e dell'arco temporale in cui si devono verificare gli eventi. Quindi si tratterà di aiutare nuove famiglie. Nuove famiglie. Chi ha già usufruito non potrà richiedere un'ulteriore proroga della durata, ma qui c'è anche un problema di stabilità dell'industria bancaria e diciamo di non approvazione dell'eventuale proroga della sospensione da parte dell'autorità di vigilanza. No, questo era per chiarirlo agli ascoltatori, che quando sentono parlare di proroga qualcuno capisce, quindi praticamente anche nel mio caso, visto che sto già non restituendo il mutuo perché ho già fatto la richiesta una prima volta, significa che la banca ha prorogato anche per me l'opportunità appunto di non pagare. No, non è così, è l'accordo che è stato prorogato, ma si apre un'opportunità per nuove famiglie in difficoltà. Ce ne sono tante, lo dicevamo, addirittura una delle associazioni dei consumatori firmatari dell'accordo parla di 360.000 famiglie in sofferenza nel pagare i mutui, e addirittura, la cito magari, a Federconsumatori di Tre Filetti, addirittura come dire, sconsiglia consiglia, se si può, di ricorrere alla procedura di sospensione, ma è chiaro che nessuna famiglia Maximilian. Questo devo dire la verità, l'abbiamo anche detto noi, sì, cioè sì, fino a che riuscite a pagare è meglio pagare. Però insomma le condizioni qualche volta. Poi non è a costo zero per le famiglie, l'abbiamo detto più volte, gli interessi continuano a maturare anche nel periodo di sospensione e poi sono da restituire gran parte delle volte al momento della ripresa dei pagamenti, ed è questo anche uno dei nodi che dovranno essere discussi nei prossimi mesi dall'ABI e dall'Associazione dei Consumatori, perché si troveranno di fronte a delle famiglie che non sono riusciti a sistemare la propria situazione reddituale e devono ricominciare a pagare le rate, e rate che sono anche maggiorate degli interessi maturati nel periodo di stop. Quindi per questi dovremmo trovare una soluzione, se non hanno ritrovato il lavoro. Esatto, adesso magari potremmo anche parlare, a prescindere dalla proroga, anche di che cosa succede a quelle famiglie che hanno usufruito già per un anno, che hanno già fatto la richiesta. Forse ad un anno non ci è arrivato quasi ancora nessuno, Maximilian, però molti si chiedono magari tra marzo e aprile, quando comincerà a scadere il primo anno di fruizione della sospensione, che cosa succederà, che cosa si troveranno a pagare appunto le famiglie, e magari potremmo aprire una finestra anche su questo punto, anzi forse è il più importante. Per adesso ci fermiamo perché abbiamo già la prima pausa. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. È pronto Paolo da Rovigo, che sentiamo non appena rientriamo in diretta. 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Ci sentiamo tra pochissimo. Eccoci ritrovati in diretta a Salva Danaio. Questa mattina siamo ritornati sul tema mutui, siamo ritornati sulla condizione delle famiglie che hanno necessità di interrompere il pagamento della rata perché si trovano in una condizione economica diversa dai mesi precedenti, perché è intervenuta o un'interruzione di un rapporto di lavoro, o perché è intervenuta una situazione di malattia nell'ambito del nucleo familiare. Ci sono tante situazioni che possono ribaltare la condizione finanziaria familiare, e pertanto, proprio in piena consapevolezza di questo, un anno fa, come ricorderete, l'ABI e le associazioni dei consumatori hanno siglato il piano famiglie, che permette di sospendere le rate dei mutui a tutte quelle famiglie appunto sulla base di determinati criteri. Ora, siccome l'emergenza familiare in Italia non è terminata, il problema del mercato del lavoro è ancora un problema molto importante, molte famiglie si ritrovano ancora in queste condizioni. Pertanto ieri ABI e associazione dei consumatori hanno prorogato questo accordo, pertanto ci sono ancora altri 6 mesi di tempo per permettere ad altre famiglie, non a quelle che hanno già usufruito della sospensione, appunto, di farne richiesta alla propria banca. Tutto questo mentre funziona anche il fondo di solidarietà, che lo stesso è un canale alternativo che permette la sospensione dei mutui prima casa per le famiglie in difficoltà. Questo è un fondo gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e peraltro, anche se ancora non se ne è parlato, siccome sono due strumenti paralleli che però appunto funzionano, evidentemente permettono però a famiglie in condizioni diverse di chiedere la sospensione delle rate, in qualche maniera forse sarebbe anche il caso di far parlare questi due strumenti. Questo è un tema sul quale le associazioni dei consumatori premono. Fabio Picciolini, segretario nazionale della Diconsum, buongiorno. Buongiorno. So che può stare con noi per qualche minuto perché l'abbiamo tirato fuori a forza da un impegno di Milano. Picciolini, insomma, qual è il vostro pensiero su questo? Fondo di solidarietà e piano famiglie, possono dialogare questi due strumenti? Ma secondo noi dovrebbero dialogare, tant'è che anche la scelta che è stata fatta ieri, la firma è stata fatta ieri, la scelta a monte della proroga del piano famiglie non è solamente, come sicuramente è stato già detto, solamente una proroga pure semplice di 6 mesi. Questi 6 mesi saranno utilizzati per fare molto di più, secondo il mio punto di vista, che qualcosa dovrebbe ancora inventarci, che è quello di verificare come poi trovare soluzioni a regime alle persone che hanno queste difficoltà, la difficoltà nel caso specifico del mutuo, perché non possiamo immaginare che la crisi sparisca all'improvviso, e allo stesso tempo non possiamo immaginare che le persone all'improvviso riescano nuovamente a pagare la rata, peraltro maggiorata, come previsto dall'accordo, degli interessi di questo anno di sospensione. Dall'altro lato abbiamo un fondo che ormai, dati le posso assicurare, molto molto recenti, di 2 giorni fa, ormai ha superato per pratiche già esaminato la metà del proprio ammontare, quindi ha già superato i 10 milioni rispetto a 20 milioni di pratiche esaminate, quindi vuol dire che sono già, il fondo si può dire, adesso questa è un po' una mia interpretazione, siamo quasi già agli sgoccioli di questo fondo, e quindi c'è il rischio che se non è ricapitalizzato purtroppo purtroppo finirà in tempi estremamente brevi. E ci sono altri due aspetti, molto importanti, che sono che per motivi abbastanza ovvi, non è neanche il caso di approfondire, i due fondi non sono paralleli sui soggetti che possono accedere. Certamente sì per il licenziamento, ma ad esempio non è uguale per quello che riguarda la cassa integrazione, non è uguale per quello che riguarda le malattie, non è uguale ad esempio per quello che riguarda il fondo pensione, il fondo del Ministero dell'Economia, mm-hmm. per tutti i dipendenti e per tutti coloro che avevano un lavoro a tempo determinato che sono stati esclusi a monte dalla partecipazione, per cui questo è il motivo che noi abbiamo già chiesto al Ministero dell'Economia, e qualcosa sembra che entrerà nel mille proroghe, sia il rifinanziamento di questo del fondo di 20 milioni, sia ovviamente di rivedere un attimino le causali per accedere. Ecco, Picciolini, per tutto questo ovviamente ci vorrà un po' di tempo, anche se ovviamente non se ne può neanche prendere più di tanto. Per quelle famiglie, anticipavamo questo tema prima della prima pausa, che devono riprendere a restituire il mutuo non appena scade il primo anno di sospensione, ammettendo che lo abbiano fatto subito l'anno scorso, tra marzo e aprile diverse decine di migliaia di famiglie dovranno riprendere appunto il versamento regolare e la restituzione appunto della rata. Vi state attrezzando come associazione dei consumatori per rispondere anche a tutte quelle famiglie che non sono ancora nella condizione di poterlo fare, quindi che cosa si farà in quel punto? C'è la sensazione che potrebbe scoppiare un'altra emergenza? Ma il rischio esiste per quello che dicevamo poc'anzi, e il motivo appunto che questa nuova sottoscrizione ieri, questa proroga, come dicevo, non è solamente una proroga, dovremo ragionare insieme all'ABI e se possibile anche con le istituzioni per verificare quale soluzione trovare, perché ripeto, la crisi non scomparirà domani mattina e non scomparirà all'improvviso, non ci saranno aumenti di stipendio favolosi perché le persone possano riprendere a pagare le rate e il lavoro purtroppo non è che potrà diminuire la cassa integrazione, potrà diminuire anche i licenziamenti, ma insomma, il problema esiste, quindi dovremo utilizzare questi sei mesi per trovare questa soluzione. Diciamo che quello che noi facciamo già oggi, ma che devo dire onestamente anche il sistema bancario fa, è che a prescindere da questo accordo, che è l'accordo di base su cui tutte le banche sostanzialmente si sono adeguate, poi ci sono singole banche, singoli gruppi che hanno ampliato il discorso appunto di questo protocollo, ad esempio arrivando già ai 18 mesi, oppure aumentando l'ammontare del mutuo fino a 200 e via dicendo, vari passaggi. Quindi diciamo che su questo noi già stiamo lavorando, ma crediamo che sia fondamentale trovare una soluzione al regime, e su questo è l'impegno che ieri abbiamo preso con l'ABI. Allora, se le faccio sentire a proposito del tema che le ponevo, Picciolini, così come lo dico anche a Pepetti, a Maximiliano Cellino, il caso di Giorgio da Bergamo, quindi chiedo ancora un attimino di pazienza a Paolo, che avevo preannunciato, ma vorrei prima sentire, visto che è attinente proprio l'aspetto che stavamo toccando adesso, vorrei sentire Giorgio. Giorgio da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Ma guardi, mio non era un problema, era peraltro un suggerimento da verificare se è possibile mettere in atto. Fermo restando che una famiglia che ha goduto della moratoria di punto in bianco, come diceva il rappresentante dell'associazione consumatori, mi pare, non è che se non ha risolto i suoi problemi possa cominciare a pagare interamente infatti la rata del mutuo, cioè dire, un po' tavolo. Io credo che un meccanismo simile a quello che moltissimi anni fa era stato messo in cantiere da alcuni istituti di credito. Mi ricordo perfettamente, molte imprese e famiglie erano cadute nella trappola dei finanziamenti in valuta, nel caso specifico erano stati fatti finanziamenti in yen. Allora valeva 7-8 lire yen euro e nel giro di meno di un anno è salito a qualcosa come 20 lire, per cui per tutti fu un disastro. Le banche rinegoziarono i finanziamenti. Sì, ma l'hanno fatto anche in tempi recenti le banche, Giorgio. Ecco, cioè, anche quando sono esplosi i tassi di interesse, l'Euribor nell'autunno del 2008, esatto, lì sono partite le rinegoziazioni. Li hanno rinegoziati. Per cui oggi un intervento che potrebbe essere studiato, soprattutto per quelle famiglie che hanno già goduto la moratoria, e non partire e dover pagare la rata intera più gli interessi. Si deve ragionare in maniera di dire, per un altro periodo di tempo da stabilirsi, la rata sarà, che so io, un quarto del capitale più gli interessi e si allunga il finanziamento. Sì, sì. Altrimenti, fatto 100 le famiglie che sono in difficoltà, voglio dire, quante saranno? 10 quelle che possono riprendere a pagare normalmente. Sì, sì. Il problema Giorgio, abbiamo, sì, sì. Abbiamo capito perfettamente. Vorrei sentire Peppetti su questo. Credo che comunque la strada sia questa, inevitabilmente, che poi che possa essere presa in termini, come dire, strutturali di sistema, o che ogni banca agisca per conto suo. Peppetti, è chiaro che magari preallertando la banca per tempo, perché questo va anche detto, magari il cliente che sa già che a marzo, augurando a tutti di trovare lavoro, ma che non potrà riprendere a pagare il mutuo, magari cominci già a farsi una chiacchierata col direttore di banca, chiedendo di magari una soluzione come quella appunto proposta da Giorgio, suggerita da Giorgio Peppetti. Credo che la strada sia inevitabilmente questa. Ma guardi, senz'altro mai prendere iniziative di non pagare le rate prima di parlare o discutere con la banca. Questo è il primo consiglio che dobbiamo dare. E la seconda è che sicuramente le banche, così come hanno fatto nel passato, e lo dimostra anche l'ultima pubblicazione della Banca d'Italia in termini di quante operazioni, ad esempio, di portabilità o di rinegoziazione che sono state effettuate, e sarà sicuramente disponibile caso per caso a valutare ovviamente la possibilità di una rinegoziazione per un allungamento, magari una riduzione delle rate, oppure addirittura autonomamente, al di là dell'accordo, della proroga che è stata fatta ieri, di poter prorogare la sospensione. Ovviamente abbiamo preso questo impegno con l'Associazione Consumatori al termine della proroga di rivederci per poter individuare soluzioni ulteriori, previa verifica ovviamente della possibilità di farlo, perché stiamo parlando comunque di un impatto che indiscutibilmente, perché bisogna comunque ricordarlo, sia sui bilanci delle banche, quindi bisogna anche valutare quant'è l'importanza dell'impatto e che cosa si può fare, ma anche con il supporto ovviamente dello Stato. Maximilian Cellino, per chi ha fruito, come raccontava Giorgio da Bergamo, della moratoria, del piano famiglie, a marzo si trova in difficoltà, ammettendo che ci sia rimasto ancora qualcosa del fondo di solidarietà, ammettendo che magari il Ministero dell'Economia nel frattempo abbia deciso di implementarlo, può fare uno switch, passare da uno strumento terminato all'altro? Sì, è possibile, è possibile, ovviamente ammesso che abbia i requisiti per poter usufruire del fondo di solidarietà, come ricordava prima Fabio Picciolini. Sono simili ma non uguali, ci sono delle differenze significative, sia come reddito, anche perché forse prima non è stato ricordato, ma il criterio, il requisito di reddito per poter usufruire del fondo è leggermente diverso. Si parla di 30.000 euro, ma si parla di reddito equivalente ISEE, cioè quindi un reddito che guarda più alla famiglia e anche alle attività e alle passività di una famiglia. Allora, comunque insomma ci si può informare, magari do anche il sito internet del Dipartimento del Tesoro, www.dt.tesoro.it/fondo mutui prima casa. Sentiamo la domanda di Paolo da Rovigo e poi andiamo ai suggerimenti per chi è in viaggio. Paolo? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti radioascoltatori. Vorrei portare l'esempio di un caro amico che 7 mesi fa si è volontariamente licenziato da un posto a contratto a tempo indeterminato con la promessa di un altro datore di lavoro di una posizione migliore. Ahimè, questa promessa non si è concretizzata in quanto lo ha assunto in nero con uno stipendio più basso. A distanza di 6-7 mesi, l'ho sentito ieri questo caro amico, è già in ritardo di un paio di rate sul mutuo, ha parlato col direttore e pare che per lui non ci siano finestre e il pollice sia verso come risposta da parte della banca. La ringrazio. Grazie Paolo. Andiamo ai suggerimenti perché in viaggio, poi le rispondiamo, intanto anche uno starnuto imminente tra poco. Allora, adesso rapidamente ci dedichiamo proprio solo ed esclusivamente agli ascoltatori. Allora, dottor Peppetti, ha sentito il caso di Paolo da Rovigo che riportava la circostanza di un suo amico che si è licenziato dal lavoro 7 mesi fa, ovviamente con la prospettiva di un rapporto di lavoro diverso e migliore. Questa circostanza non si è concretizzata. Il fatto che Paolo si sia licenziato di sua iniziativa la prima volta compromette l'opportunità di chiedere la sospensione del mutuo? Guardi, noi in accordo con l'Associazione dei Consumatori, per evitare forme diciamo particolari o speculative, abbiamo previsto che la sospensione non si verificasse qualora il cliente si diciamo licenziasse autonomamente. ecco, proprio per evitare situazioni volontarie di sospensione, ma cercare di effettivamente supportare le famiglie che avessero difficoltà per verificarsi di eventi non controllabili. Mm-hmm. In questo caso c'è stata un'autonoma volontà di sospendere il lavoro, quindi non rientrerebbe nella fattispecie prevista, peraltro non rientrerebbe nemmeno in quanto riguarda il fondo di solidarietà. Esatto. Detto questo, ribadiamo sempre, come dire, la regola aurea, dottor Peppetti, una chiacchierata col direttore se la può fare, magari è un direttore che conosce da tempo, gli spiega la situazione, non dico una sospensione radicale, ma magari una rinegoziazione che alleggerisca la rata in maniera significativa, la può trattare. Assolutamente. Maximilian, credo che l'abbia già fatta, mi sembra che Paolo però gli consigliamo di rifarla, di insistere un po'. Dottor Peppetti, le leggo Maximilian, stavamo valutando una mail che ci è arrivata, che è arrivata noi di Salvadanaio nei giorni scorsi, di Simone. Le leggo questo caso perché ci interessa capire come va fatto una volta che la sospensione è già stata fatta, come avviene il rimborso, soprattutto nel calcolo degli interessi che sono stati sospesi, perché questo ragazzo Simone ci racconta che con la sua banca si è avvalso a febbraio scorso appunto della sospensione, e alla scadenza della moratoria di cui lui ha fruito di questo anno dovrebbe pagare interessi di quest'anno per 868 euro. E si è recato in banca, dice, gli hanno riferito che non può pagare subito gli interessi maturati in questo anno di stop, ma li dovrà pagare tutti alla fine del mutuo fra 29 anni con tutti gli interessi del caso, il che ha fatto un calcolo e praticamente ha conteggiato che questi 868 euro diventano, sono pochi tra l'altro, ma perché da quello che capisco ha fatto un solo anno di mutuo per il momento, per cui no, però sono pochi per un anno, Maximilian, 868 euro mi sembrano che pochini per un anno. Detto questo, lui ha calcolato, dottor Peppetti, che alla fine del mutuo la banca gli chiederebbe qualcosa come quasi 7.000 euro, il che ci potrebbe anche stare conteggiando, ma è corretta questa procedura, cioè che gli interessi finiscono tutti in coda al mutuo? No, allora, innanzitutto la tipologia di rimborso viene concordata con il cliente, comunque viene comunicata al cliente. E noi abbiamo previsto nel nostro accordo che non vi fossero degli interessi calcolati, quindi o c'è stato un errore oppure si sta riferendo a un'altra tipologia di sospensione al di fuori del piano famiglie, che è l'ipotesi che ha fatto Maximilian. Quindi esatto, e quindi penso che sia il caso di andare a chiedere informazioni meglio presso la propria banca. No, perché ci stava proprio con i tempi, lui dice l'ha chiesta a febbraio dello scorso anno, per cui effettivamente eravamo proprio in concomitanza con l'avvio del piano famiglia. Allora, di che cos'altro dobbiamo parlare? Di temi appunto da affrontare? Antonio da Treviso, i lavoratori autonomi, qua riapriamo un'altra parentesi un po' triste e difficoltosa. Antonio? Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. No, niente, io semplicemente chiedevo, visto che l'associazione dei consumatori fanno sempre riferimento ai dipendenti e per l'amor di Dio, sono talmente tanti, però sono tanti anche lavoratori autonomi che effettivamente in questo periodo con la crisi perdono i clienti, agenti che vengono lasciati per strada in sostanza dalle ditte mandanti, e di conseguenza si trovano in una situazione di difficoltà. Quindi volevo capire se era il caso di poter usufruire di questo accordo che è stato fatto, di cui parlavate, anche per quanto riguarda il mondo delle partite. Antonio, guardi, allora noi abbiamo dedicato tantissime puntate a questo argomento, abbiamo spiegato più volte e sia dell'insistenza che le associazioni dei consumatori hanno avuto nei confronti dell'ABI per poter aprire anche l'opzione sospensione ai titolari di partita IVA, quindi ai lavoratori autonomi, e più volte abbiamo ribadito che questo risultato non è stato possibile ottenerlo. Maximilian, peraltro, non proprio per delle ragioni così di principio, di chissà di che cosa, perché è difficile effettivamente fare delle valutazioni appunto sui redditi percepiti da questi lavoratori, no? Sì, io ricordo che prima che si arrivasse proprio al piano famiglie, se ne è parlato a lungo, penso quasi un anno, del piano famiglie, della sospensione tra ABI e associazioni dei consumatori, lo stop doveva essere previsto anche per chi era un lavoratore autonomo. Poi, e qui Peppetti potrà anche aiutarmi, durante le discussioni sono sorti dei problemi anche abbastanza rilevanti, anche di carattere tecnico, perché se chi ha perso un lavoro a tempo determinato o indeterminato, quello che si vuole, è abbastanza facile, semplice capirlo. Chi ha subito un calo delle entrate o addirittura ha perso il lavoro autonomo, lasciatemi passare questa espressione, è abbastanza complicato. Non si può capire, non si può magari chiudere una partita IVA, non si può riaprirla da un'altra parte, non so. È un ambito un po' più difficile da monitorare. È molto complicato. Detto questo, probabilmente ci possono essere, possono essere necessarie delle soluzioni. Ricordo ancora che c'era moratoria per le piccole e medie imprese si riapre il tavolo tra qualche giorno, perché anche quella sta scadendo. Esatto. Dottor Peppetti, abbiamo un minuto di tempo sul tema del lavoro autonomo? Ma guardi, è corretto quello che ha detto Max. Ci siamo chiesti anche con l'associazione dei consumatori quali potessero essere gli elementi che potevano supportare il verificarsi di determinati eventi che potevano determinare la perdita, diciamo, del posto di lavoro del lavoratore autonomo, che essendo lavoro autonomo non poteva perdersi se non per effetto di una ad esempio volontarietà dovuta ovviamente in questo caso alla crisi, per carità. E però è differente il meccanismo, perché è difficile creare un automatismo per la presentazione di un evento che, come potrebbe essere la chiusura partitativa, che è necessariamente volontario. Quindi anche lì come facciamo a sapere se c'è una situazione speculativa o meno? E nel tavolo che stiamo aprendo nell'ambito del patto per la crescita, quindi con le imprese, a seguito del termine dell'avviso comune, sicuramente verrà portata all'attenzione questa problematica. È stata sicuramente pressante anche per voi negli ultimi mesi. Salvadanaio, sul tema della sospensione del mutuo è terminato, adesso andiamo alle parole della previdenza. INPS, per saperne di più. E appunto con l'INPS vi stiamo spiegando da diverse settimane le parole della previdenza. La parola che abbiamo scelto oggi, anzi il concetto, perché non c'è mai una sola parola, è domanda di mobilità ordinaria. L'indennità di mobilità spetta se si viene licenziati da aziende in difficoltà e garantisce al lavoratore che ha perso il posto un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. Dal 1 gennaio di quest'anno la domanda deve essere presentata online collegandosi al sito internet dell'INPS www.inps.it. La richiesta va inoltrata entro il 68esimo giorno dal licenziamento e l'indennità verrà pagata a partire dall'ottavo giorno se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento. Per garantire la necessaria gradualità, per i primi 3 mesi dell'anno verranno ancora accettate le domande cartacee. Angelo Peppetti dell'ABI ci ha già salutato, io invece saluto viva voce Maximilian Cellino del Sole 24 Ore per averci aiutato anche oggi. Ci sono molte domande di molti ascoltatori che continuano a chiederci: ma come funziona la moratoria? Che cos'è il fondo di solidarietà? Non possiamo ricominciare da zero la trasmissione, prendetevi, investite questo euro sulle Sole 24 Ore di questa mattina, c'è il vademecum per lo stop alla rata, l'ennesimo pezzo che su questo tema Maximilian ha scritto. Riascoltatevi la trasmissione, ma su internet pure trovate tutto. Grazie per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani. Buona giornata. Salvadanaio.